Parliamo del secondo spettacolo che andrà in scena oggi, Donne, regia ed elaborazione del testo Simone Schinocca, interpreti Valentina Aicardi e Silvia Freda. Ne parliamo con l'aiuto regista Claudia Cozza. Ci sei, Claudia? Ciao a tutti. Allora, parliamo, raccontiamo un po' a chi ci ascolta come nasce questo spettacolo Donne. Allora, questo spettacolo nasce con un lungo lavoro sui testi e principalmente abbiamo lavorato tantissimo su quelle che sono state le leggi e quindi i cambiamenti che ci sono stati nell'arco del Novecento, proprio perché lo spettacolo va a raccontare le conquiste sia in ambito familiare, sociale e politico che le donne hanno conquistato in tutto l'arco del Novecento. Sì. Senti, quando è nato praticamente lo spettacolo? Quando ha visto la luce? Allora, lo spettacolo debuttato, diciamo che abbiamo iniziato a lavorarci nel 2007, poi abbiamo fatto un'altra ripresa successivamente. All'inizio erano in tre le attrici, sì. Poi abbiamo rivisto il testo, abbiamo aggiunto delle cose ed è da qualche anno invece che giriamo con la versione A2, abbiamo aggiunto anche una parte specifica sulla violenza sulle donne che nella versione iniziale appunto non c'era, ma come tema è molto, molto caldo e ci sembrava giusto inserire anche questa nota nel testo. Allora, come vediamo anche nella scheda, si parla di mondine, si parla di partigiane, anche di immigrate e lavoratrici. Ecco, come avete scelto, adesso dicevi anche di questo nuovo elemento sulla violenza di genere, come avete scelto i vari elementi che compongono quest'insieme? Ma diciamo che abbiamo cercato di valutare l'aspetto della donna in tutta la sua bellezza ma anche complessità e quindi sì, valutando tutti gli aspetti che compongono appunto il campo familiare e lavorativo, per esempio tutte le conquiste anche che ci sono state in ambito della maternità, le ore di lavoro, quindi proprio com'era diverso il carico lavorativo nell'ambito femminile in base alle ore, in base ai giorni di riposo, in base alla maternità, e tutti questi aspetti sono fondamentali ovviamente in qualsiasi campo, ma ci siamo resi conto che ovviamente nell'ambito femminile ci sono state delle conquiste che hanno avuto bisogno di un po' più di tempo, un po' più di lavoro, e sono arrivate anche un po' tardi, perché poi come si sente nel testo dello spettacolo, alcune conquiste le abbiamo ottenute davvero pochi anni fa in proporzione. Ci sembra a volte, se pensiamo alla legge sul aborto, sul divorzio, alla maternità, ci sembra che siano cose scontate. In realtà, se poi andiamo a vedere le leggi, sono cose che in proporzione da poco tempo che ci sono. Senti, Claudia, invece rispetto alla documentazione, come vi siete, su cosa avete lavorato? Ma abbiamo lavorato appunto sia sulle leggi vere e proprie e anche su raccolta di storie realmente accadute, quindi per esempio il caso di Franca Viola, piuttosto che la parte anche sulla violenza sulle donne, le parole sono tratte da storie vere, quindi abbiamo creato il testo lavorando sia su racconti di storie vere che sulle leggi. Abbiamo amalgamato il tutto in un'esposizione poi teatrale in cui le attrici sono in parte personaggio, vari personaggi in realtà, perché sono varie donne ovviamente che raccontano la propria storia, ma anche in parte semplicemente narratrici di quello che è stata appunto tutta la parte legislativa. Claudia, immagino che abbia fatto un po' il giro di tutta la penisola lo spettacolo in questi anni, che bilancio ne fate? Beh, quest'anno è l'anno in cui facciamo la nostra 70ª replica e quindi siamo anche molto, molto contenti, perché è uno spettacolo che, nonostante appunto sia stato creato un po' di anni fa ormai, in realtà rimane comunque un tema attuale su cui c'è bisogno di lavorare e abbiamo proprio la percezione quando andiamo in giro che ci sia la necessità comunque ancora di affrontare determinate tematiche, quindi sicuramente ci portiamo dietro questo bagaglio di esperienza accumulato, come ben dicevi, in tutta Italia, perché abbiamo fatto veramente repliche ovunque, fortunatamente, e molte altre ancora ne faremo in giro, e diciamo che il riscontro del pubblico è sempre positivo e piacevole, ed è sicuramente il lato che ci portiamo a casa con grande soddisfazione. Anche due parole, Claudia, sul progetto della vostra compagnia? Certo, noi siamo un'associazione, nasciamo come associazione nel 2002, ci occupiamo di teatro, danza, canto, musica su vari settori e vari livelli, nel senso abbiamo sia la parte amatoriale che la parte appunto professionistica, ci occupiamo e siamo profondamente radicati nel territorio in cui siamo nati, perché abbiamo una nostra sede in cui gestiamo laboratori aperti a chiunque, e facciamo anche una nostra rassegna teatrale nel nostro teatro, che è Bell'Arte, e quindi lavoriamo molto sul territorio, ma crediamo veramente che sia fondamentale portare il teatro a chiunque. Mm-hmm. E questo è sicuramente la cosa principale su cui lavoriamo, che chiunque può venire a teatro e chiunque può partecipare e portare le proprie esperienze in modo costruttivo. Ci lasci in chiusura i riferimenti internet per chi volesse saperne di più sulla vostra attività e sullo spettacolo nello specifico? Assolutamente, il sito è www.tedaca.it, ci sono tutte le informazioni su tutte le nostre attività, i nostri spettacoli e le date future appunto di donne e delle altre attività che portiamo avanti parallelamente, quindi www.tedaca.it. Allora, un ringraziamento per la vostra presenza oggi al Radio Teatro, un abbraccio, un in bocca al lupo, perché tra poco state per andare in scena e ci sentiamo, spero, prossimamente. Certo, volentieri, ti ringrazio e crepi il lupo. Ciao, a presto. Grazie, ciao.